cielo mi sovrasta, minaccioso. È troppo grande per me. Guardo in giro e vedo cose sterili, morte, come rose dai vermi. Anche i visi delle persone sembrano cadere a pezzi, simili a puzzle che si decompongono. Posso scrutare nella loro anima e vederne il volto sfigurato. È una macabra allucinazione mentale che mi perseguita, che si ripresenta a torturarmi. È un clown col cerone che mi guarda con uno sbieco sorriso ed è qui con me, adesso. Fa paura parlarne. È qualcosa che mi uccide ogni giorno e rinasco solo nella notte, quando il mondo tace e respira sommessamente. Così mi cullo insieme alla notte e ai suoi rumori ovattati. Il giorno, al contrario, fa paura. I mostri vanno in giro proprio all'alba, in attesa di spolpare quello che resta della tua umanità, di umiliarti, di lasciarti vuoto come un sacchetto per strada. Il giorno è il loro momento, dei loro sguardi vacui, della loro pusillanimità assassina. Ma forse, tutto sommato, sono io il meschino che cammina per strada, perché assommo in me tutte le sfumature peggiori dell'uomo moderno, tutti i vizi, tutte le vigliaccherie, tutte le prostituzioni. Poi mi guardo in giro e vedo persone che non sono migliori di me, che si nascondono dietro la patina del loro viscidume, spacciato per ottimo trucco, alla moda. Non mi sento peggiore di un banchiere che truffa migliaia di risparmiatori, facendo fallire centinaia di aziende e andare in fumo migliaia di posti di lavoro. E non sono peggiore del pubblicitario che pensa per la TV spot indecenti sulle banche. E non sono nemmeno peggiore della televisione che passa questa spazzatura. Non sono peggiore del tassista che guida ubriaco e uccide un passante. Né peggiore dell'autista d'autobus strafatto di alcol e cocaina che esce di strada per la fretta. Non sono peggiore del deputato di turno che incassa mazzette per favorire aziende della mafia. Né peggiore del giudice che lo assolve. Il mondo è pieno di gente di merda come me. La marea cangiante di uomini di merda che gira nelle strade delle nostre città, nei sentieri di campagna, sulle spiagge affollate. È immensa. Ci sono donne che buttano i loro bambini nei cassonetti dell'immondizia, non meno di un loro assorbente macchiato di sangue mestruale, solo un fastidio, l'ennesimo, del loro essere donne, perché donna è una parola troppo complicata per essere spiegata in poche parole. La donna che uccide il proprio bambino in questo modo è un assassino tale quale ad un killer maschio della mafia. Non posso essere solo io assassino se sparo ad una guardia giurata che mi ucciderebbe se non lo facessi durante una rapina. Non è possibile che sia solo io il mostro da prima pagina da sputare in faccia alla gente per bene. Il medico che specula sulla malattia e la sofferenza dei malati, l'infermiere che maltratta fino ad uccidere i propri pazienti, l'ospedale che fa sparire i corpi dei propri pazienti e li seppellisce a due nella stessa tomba. Sono un deviato, d'accordo. Un assassino, va bene, ma il vescovo che gestiva quell'ospedale cosa sarebbe? Non posso essere troppo diverso da lui. Ho fatto cose cattive, cose che mi hanno fatto diventare cattivo a mia volta, e so cosa significa comportarsi di merda. Nel senso pieno della parola, non esistono giustificazioni o scuse. E la notte non dormo per questo. Preferisco ascoltare il rumore del mondo che dorme, perché il mio, di notte, sarebbe attraversato da urla strazianti. Preferisco staccare il cervello manualmente con qualche sostanza chimica, qualcosa che mi impedisca di sognare la mia oscenità. Esprimo il mio giudizio solo perché, essendo quel che sono, nessuno mi concederebbe la libertà di farlo. Il mio posto è il silenzio, faccia al muro, inginocchiato sui ceci. Qui, al contrario, sono io quello che può parlare e zittire tutti gli altri. Quello che ho fatto è disumano, me ne vergogno. ma insieme a me dovrebbero vergognarsene molti altri che fanno lo stesso ogni santo giorno, ma passano per brave persone. Ho ucciso una guardia giurata con un colpo di pistola dritto al cuore. Ho visto il sangue schizzare lontano e uno squarcio allargarsi sulla camicia blu, solo un attimo dopo aver premuto il grilletto di quella maledetta pistola. Ho visto il cuore di quell'uomo, i sentimenti che esso cullava, le sue emozioni, smembrarsi per un pezzo di piombo non più grande di un'unghia. Un insignificante pezzo di metallo inquinante. Ho ucciso un uomo mentre lavorava, mentre sudava la sua scodella da cane da riempire ogni mese, morto per proteggere i soldi di qualcuno che nemmeno lo ringrazierà o andrà al suo funerale. Io ho ucciso quell'uomo nel fare il suo lavoro, ma un imprenditore che truffa sulla sicurezza, come dovrebbero considerarsi gli operai uccisi dal non rispetto delle norme di sicurezza? Io vado in galera e sono un reietto, lui è una persona rispettabile. Io ho ucciso per una bustina di polvere schifosa, passata di mano in mano, lurida, sudicia, come l'anima del demonio. Lui uccide per una manciata di banconote, passate di mano, lurida, sudicia, come l'anima dell'uomo. Rubo i soldi e mi compro la droga. Rubo i soldi e mi compro il TV al plasma. Dove sta la differenza? Non sono una brava persona, certamente, ma so contare. Non c'è bisogno di essere un filosofo o di andare all'università per capire certe cose. Non c'è bisogno di studiare e saper trovare le parole migliori per pronunciare le verità. La morale pubblica è un'invenzione del potere. È codificata in codici ideali che non esistono. I codici ideali sono quelli che condannerebbero me a 12 anni di galera per omicidio aggravato e l'imprenditore di prima a 2 mesi di reclusione per omicidio colposo. Ma io, imprenditore e giudice, nonché legislatore, sappiamo benissimo tutti insieme che un uomo, pur di intascare qualche soldo in più risparmiando sulla sicurezza del lavoro, è perfettamente consapevole che quello porterà alla morte di alcune persone. È la stessa consapevolezza di chi ha una pistola in mano e preme il grilletto. L'unica differenza è nella tempistica. Lo sparo avviene in una frazione di secondo. L'operaio che cade dall'impalcatura ci mette qualche tempo. Se la morale fosse basata sulla tempistica, vale a dire che più passa tempo tra l'effetto e la causa delle nostre azioni, più la colpa diminuisce, allora significa che l'assassino sono soltanto io. Se fosse così, oggi Hitler dovrebbe essere un santo, se è una questione di tempistica. Ma la morale non è una questione di tempistica, bensì di tempo, nel senso di epoca. All'epoca Hitler uccideva gli ebrei ed era una cosa normale, accettata. Solo dopo la guerra si è parlato di genocidio. Non crediamo alla favola del noi non sapevamo. Pochi in Europa e nel mondo dell'epoca sopportavano gli ebrei. L'antisemitismo non l'ha inventato il nazismo, semmai il contrario. I coloni del nuovo mondo sfruttavano come bestie da soma persone dal colore della pelle diverso ed era accettato. Certo, non da tutti, ma era normale considerare un ebreo un ratto da fogna in una certa epoca. Ed era normale, e ancora lo è, considerare un uomo di colore uno scherzo della natura. È questione di latitudine non solo geografica, ma anche temporale. Oggi molte aziende italiane sono in mano a furfanti da strapazzo, ma è una cosa normale, accettata. E si lavora sapendo di rischiare la vita, perché ha accettato il fatto che un datore di lavoro che ti lascia morire non è un assassino, ma un benefattore, perché dà lavoro alla gente. L'esercito statunitense, che protegge i campi da oppio in Afghanistan, compie una missione di pace. Io che sparo per procurarmi i soldi per pagarmi quello stesso cazzo di oppio, compio un atto criminale. È un mondo curioso, il nostro, fatto di questi equivoci, fatto di questo e anche di peggio. Scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafaggi, scarafagg Benvenuti dalle frequenze di Radio Ciroma 105.7 ciroma.org. Noi siamo gli scarafaggi incazzati come bisce feroci oggi. Ma 10 minuti fa sì, un po' tu ti sei calmato. Beh, meglio così, vabbè, così facciamo una puntata un pochino mezza e mezza. Io più attivo e tu un pochino più perfetto. PD, tu fai il moderatore, PD. Infatti tu sei PD. Comunque, dicevamo, noi siamo gli scarafaggi, quarta puntata di questa nuova stagione. Abbiamo, diciamo, tante news oggi, tante novità, sono successe un po' di cose. Stiamo organizzando una serie di iniziative che tra poco illustreremo, che diciamo creeranno un pochino di scompiglio nel mondo politico calabrese, se va tutto come deve andare. Quindi daremo conto di queste nuovi sviluppi, di questi nuovi eventi. Racconteremo quello che sta succedendo al presidio, come sta andando avanti la raccolta firme per la richiesta al grande Gerardo Mario Oliverio per il ritiro dell'AIA della discarica di Celico. E poi vediamo se poi cercheremo di mettervi forza e coraggio per questa lotta che ci aspetta nei prossimi giorni, perché sarete chiamati tutti a raccolta per difendere il territorio, giusto per darvi un po' di vigore, un po' di Viagra politico. Noi facciamo turgidi. La nostra petizione è stata appena condivisa è stata appena condivisa dalla pagina Facebook di Unimondo, che è uno dei blog di informazione e controinformazione più seguiti su Facebook. Quindi diciamo che ormai abbiamo un risalto completamente nazionale grazie ai parlamentari, senatori, certo, stiamo facendo un bel po' di rumore, stiamo facendo davvero un bel po' di rumore. E quindi questo è quello che oggi, vabbè, eravamo partiti incazzati, ma qua stiamo ridendo, va bene così, dai. Niente, andiamo con la rubrica, come dice Andrea, che ci guida dietro il vetro come sempre, altrimenti deraglieremmo come treni impazziti. Salutiamo Mariella, che è con noi anche oggi. Allora, vediamo un pochino. Oggi, caro Andrea, è un giorno importante. Oggi è il 12 ottobre, non sapevo nemmeno che fosse il 12 ottobre. 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo scopre l'America. Direi anche, non si poteva fare i cazzi suoi. Comunque, andiamo avanti, vediamo che cosa. Vediamo che cosa è successo. Primo ospedale psichiatrico d'America apre in Virginia, 1773. Visto che abbiamo a che fare con pazzi tutti i giorni, credo che sia utile richiamare questa cosa. Il primo Oktoberfest, vedi, in Baviera, nel 1810, sempre il 12 ottobre. Ci sono delle casate che andrebbero citate, ma noi dei re ce ne freghiamo, quindi ora è una delle feste popolari più importanti d'Europa, quindi parliamo delle feste popolari. Poi vediamo un pochino, nel 1822 il Brasile diventa formalmente indipendente dal Portogallo e Don Pedro viene proclamato imperatore del Brasile. Poi vediamo, nel 1859, pensa, c'è questo pazzo, il 12 ottobre Joshua Norton, autonominatosi imperatore degli Stati Uniti, ordina, tra virgolette ovviamente, al congresso di sciogliersi. Un pazzo completo. Quindi il 12 ottobre è il giorno dei pazzi. Noi oggi siamo un pochino fuori dalle righe, quindi ci troviamo bene. Nel 1928 il polmone d'acciaio viene usato per la prima volta al Children's Hospital di Boston. Poi vediamo che cosa è successo più. Nel 1946 l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Purtroppo ce lo troviamo ancora adesso, nel 2015. 1960, guerra fredda, Nikita Sergeevich Khrushchev picchia la sua scarpa sul tavolo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sa chi puzzi i peli, per protestare contro la discussione delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Europa orientale. Quindi la scena famosissima di Khrushchev che batte questa scarpa come un pazzo. Vediamo che cosa è successo. Il Vietnam, 67, il segretario di Stato statunitense Dan Rusk dichiara durante una conferenza stampa che le proposte del congresso per un'iniziativa di pace sono futili a causa dell'opposizione del Vietnam del Nord. Vabbè, notizie che potevamo anche... Mi sta chiamando il sindaco Falcone, lo rispondiamo in diretta, poi rifiutiamo la telefonata, poi se ne parla dopo. Vediamo un po'. 84, Margaret Thatcher sopravvive a un attentato dell'Ira. Peccato, ce l'avevamo tolta dalle palle prima, è durata fino a pochi anni fa. la Lady di Ferro. Poi vediamo che cosa è successo più nel 2002. Attentato di Bali. A Bali dei terroristi fanno esplodere delle bombe in due nightclub di Kuta, uccidendo 202 persone e ferendone oltre 300. Insomma, diciamo che in giorni come questi di attentati, insomma, ricordiamo le due bombe di pochi giorni fa in Turchia durante una manifestazione pacifista dei curdi, è bene ricordare tutti questi gli eventi simili. Quindi la rubrica per oggi è finita, andiamo con il pezzo musicale, poi partiamo con questa puntata pazza che è partita in questo modo. Italo, volevo dare un contributo musicale dal cellulare, posso? No? Non posso? Va bene. Vabbè, no, ci sentiamo tra poco. È la parte migliore di tutti nosotros. È stato visto sul confine fra Quemado e Santa Rosa, sui sentieri che costeggiano Rio Grande. Col suo cavallo marrone e suo fucile sotto braccio, cavalcava veloce come il vento. La mamma branca va dicendo che l'ha incontrato a San José, mentre le guardie lo inseguivano sparando. Padre Ramon l'ha ospitato, benedetto e ringraziato, e l'ha lasciato sulla strada per un anno. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, cantano i bambini nella piazza del mercato. Ci raccontano le storie vecchie, ridono con te, ci ricordano la guerra dei peores, di quando Feri Garcia girava insieme a Pancivita nei peggiori della rivoluzione. Ha combattuto come un diavolo per tutti gli anni 10, fino al giorno in cui tradirono Zapata. Poi è sparito dicendo tornerà il nostro momento, ed allora la leggenda è cominciata. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, lo cantano i bambini nella piazza del mercato. E viva l'Ego del Tierra e Libertà, signori sulla testa, Feri Garcia è tornato. Nella selva la canduna, insieme agli uomini con il passamontagna. Un indio guarda, sorride, tira fuori il suo fucile a stasera e ricomincia il sogno. E lo dicono gli uomini seduti dentro al bar, lo cantano i bambini nella piazza del mercato. E viva l'Ego del Tierra e Libertà, signori sulla testa, Feri Garcia è tornato. Qualche uomo sta lottando per un ettaro di terra, una casa, una scuola per sfamarsi. Se qualche uomo si è stancato di girare a capochino, in quel momento e in quel posto puoi trovarlo. Non sto facendo questa guerra per la fede in partita, non combatto per servire una bandiera, ma per lo sguardo stupito e gli occhi dolci dei bambini che ho incontrato sulla strada di Guerrero. Sono i vecchi seduti alle verande, lo gridano le donne nella piazza del mercato. E viva l'Ego del Tierra e Libertà, signori sulla testa, Feri Garcia è tornato. E viva l'Ego del Tierra e Libertà, signori sulla testa, Feri Garcia è tornato. E viva l'Ego del Tierra e Libertà, signori sulla testa, Feri Garcia è tornato. Siamo in onda di nuovo dalle frequenze di Radio Ciroma, 105.7 ciroma.org. Questo lo dico ormai perfetto, per il resto oggi non ne concluderemo una. Italo, allora stavamo volevamo insomma introdurre quello che è successo, insomma, per rendere un pochino conto a chi ci ascolta degli ultimi sviluppi, delle ultime novità sul fronte di scarica di Celico. Insomma, diciamo che si stanno preparando dei giorni caldi, molto molto caldi, quindi introduciamo quello che è successo stamattina. Stamattina qualcuno ha pensato di vedere dei fantasmi. Pensavo fosse Manhattan con i Ghostbuster, perché avevano detto che la discarica era chiusa e ci siamo visti passare dei compattatori belli pieni di spazzatura indifferenziata proveniente da Lamezia, e ho detto forse abbiamo tutti... È un'allucinazione. Forse era presto. Era presto? No, era presto, erano verso le 11 stamattina. Voglio dire, quindi abbiamo visto questi compattatori e giustamente li abbiamo seguiti e siamo arrivati in discarica, però... La discarica è chiusa, ovviamente. Sì, così dicono, però ovviamente noi avevamo già risposto, non è così, e oggi è stata la dimostrazione che la discarica è aperta, addirittura è aperta per il momento solo ai privati che conferiscono appunto in questa discarica, non per il pubblico, ma quando sarà finito il capannone con il biofiltro. Oggi abbiamo visto l'installazione del sostegno del biofiltro da lontano, ne vediamo tutto. E siamo come il Grande Fratello, guardiamo qualsiasi cosa, qualsiasi movimento. Tutto ritornerà come prima, quindi diciamo è una presa in giro, e alcune persone farebbero bene a scrivere o a non scrivere nulla su Facebook. Sarebbe meglio che non scrivessero proprio nulla, secondo me. Quindi la situazione, diciamo, non è che sia mai risalita da quando è precipitata, diciamo, continua a precipitare a rotta di collo. Diciamo che siamo sul fondo scaviare e abbiamo cominciato a scavare. Sì, stiamo scavando bene. Che dire, insomma, la raccolta firme continua ad andare avanti, però siamo arrivati a un punto in cui obiettivamente è palese quanto la situazione sia bugiarda, quella che è stata descritta, sia anche su alcuni giornali. E quindi penso che nei prossimi giorni, dopo aver consegnato il documento firmato dai sindaci, il nuovo documento che prevede la richiesta di tiro dell'AIA, l'autorizzazione di area ambientale della discarica di Celico, che è l'unico dispositivo, l'unica azione che si può fare per bloccare definitivamente questo ecomostro, e sarà accompagnata da questa raccolta firme che ha già raggiunto quote 4.000 firme, forse sto esagerando, però ci siamo quasi alle 4.000, se non le abbiamo sorpassate. Puoi anche esagerare, perché dai conti che abbiamo fatto ieri sera siamo oltre le 4.000 firme cartacee, più oltre le 1.000 firme online. In solo una settimana, che non sono proprio pratico di raccolta firme, però penso che in una sola settimana siano parecchie firme. Ci sono partiti che vantano chissà quanti voti, ma penso che pochi l'abbiano presi così tanto. Se non vogliono prendere in considerazione queste firme e il modo come sono state raccolte, il tempo in cui, insomma, 4.000, 5.000 firme sono state raccolte, è questione di volontà, perché il dato politico è forte, perché è chiaro che se ci mettessimo a raccogliere firme le raccoglieremmo tutte quelle della presidenza. Sì, ma se infatti noi portiamo bambini queste, compresi, li portiamo queste e poi dopo una settimana gliene portiamo altre 4.000, poi gliene portiamo altre 4.000, poi altre 4.000, poi se vuole altre 4.000, vediamo fino a quando vuole avere firme, così gli riempiamo la regione di firme di cittadini della Presina, ma non solo, perché sta firmando un sacco di gente anche di Cosenza e di altri paesi che comunque sono ormai legati e interessati alla questione della discarica illegale di Celico. Quindi dopodiché noi daremo un opt-out al presidente, ovviamente, perché ha avuto tutto il tempo di ragionare, di trovare un'alternativa. Non ci sono margini di trattativa, c'è un popolo intero, non è più il comitatino del cazzo come dice Renzi, è un popolo intero che dice no, vabbè, è verità. No, è vero. A proposito, una parentesi, sì, un plauso alla sezione dei Valarioti dei GD di Cosenza, che finalmente hanno in un comunicato descritto in poche parole cosa sta succedendo al Partito Democratico, al paese in generale. Si sono dimessi, hanno stracciato le teste, non lo so, si sono dimessi dalle cariche ufficiali dei Giovani Democratici. Diciamo che le motivazioni che hanno dato sono dei veri macigni politici. Sì. Ritornando a noi, diciamo che l'out-out è stato dato, la presila è anche disposta, come ha già dimostrato più volte, a invadere le strade. Se è necessario bloccare tutto quello che c'è da bloccare, i sindaci sono dalla nostra parte, alcuni consiglieri regionali lo sono ugualmente, abbiamo ricevuto visite fisiche proprio di parlamentari del 5 Stelle, per esempio, hanno firmato e sono già messi a disposizione per una ventolazione di blocco, abbiamo le adesioni anche di altri parlamentari, addirittura anche di senatori, sia 5 Stelle, sia SEL, attendiamo anche quelli del PD, sicuramente daranno massima adesione, la vedo la Bruno Bossi come scudo umano. Sì, sì, sì, sì, sì. Anch'io la vedo. Su Facebook la vedo. Insomma, bisogna farsi coraggio, perché sicuramente ritireranno l'AIE, però casomai siamo pronti e a breve ci determineremo in un'assemblea pubblica. Sì, un'assemblea pubblica che faremo. Innanzitutto, vabbè, ricordiamo che nelle iniziative, vabbè, poi lo facciamo dopo, dai. Sì, sì, vabbè, è così. Insomma, comunque, giusto perché il discorso è questo, scusa, che voglio dire una cosa che è importante. Sì, perché penso che sia abbastanza importante rimarcare il fatto che ancora una volta la regione, i camion che sono passati oggi non sono dei semplici camion che sono andati a scaricare, è una presa in giro vera e propria, perché fondamentalmente loro hanno emesso questo dispositivo in cui bloccavano i conferimenti a Cerico, dando un contentino, no, alle nostre minacce, quindi cercando di bloccare un pochino l'agitazione che avevamo creato subito dopo la scadenza dell'emendamento Orso Marzo e la riproposizione dell'emendamento Orso Marzo sotto forma di ordinanza urgente, condigibile urgente. Quindi ci hanno dato il contentino con questo dispositivo di blocco dei conferimenti. In realtà, poi leggendo bene fra le righe, i conferimenti sono bloccati soltanto per 3 impianti, che sono quello di Rossano, Calabria Maceri e Rossano e Siderno. E Siderno. Quindi, voglio dire, in realtà gli altri impianti possono venire a scaricare in privati, questo momento impianti, impianti che non fanno parte del circuito pubblico, quindi in realtà è come se avessero inibito Celico, avessero tolto Celico dall'emendamento Orso Marzo che hanno riapprovato. Sì, fondamentalmente sì, questo è nei fatti, quindi è una presa veramente per i fondelli. E il discorso qual è? Il discorso è che Oliverio si deve rendere conto che quella discarica, o di circuito pubblico o circuito privato o circuito di Monza di Formula 1, è illegale, quindi va chiusa a prescindere, non deve ricevere niente, né acqua, né fiori, né cacca, né spazzature, né quant'altro. Quella discarica è illegale e va chiusa, ed è quello che stanno chiedendo i cittadini, è quello che sta chiedendo un intero territorio che non ne può più di ricevere rifiuti da tutta la Calabria, non ne può più di vedere le normative stravolte, di vedere un territorio devastato, di sentire puzza, di vedere svalutate le proprie case, di vedere svalutata la propria vita. Quindi questo è il punto centrale. In questi giorni le nostre iniziative mireranno principalmente a rendere effettiva questa richiesta, qualora Oliverio non ci sentisse da quell'orecchio. Glielo facciamo sentire dall'altro orecchio, perché la gente in Presila, e non solo in Presila, perché visto le adesioni che abbiamo avuto, è qualcosa che è montata e che sta montando trasversalmente un po' ovunque. La gente non ne può più di questo modo di gestire una regione che sta veramente finendo nel medioevo, perché con tutti i problemi che ci sono in Europa, nel mondo, guerre, Siria, la situazione è veramente drammatica, la Calabria sta sprofondando, e con questa gente non andiamo da nessuna parte. Quindi questo giusto per rimarcare questo aspetto. Le adesioni ovviamente non è che sono date perché siamo simpatici, perché siamo mediatici. Le adesioni sono date perché comunque la questione ormai è alla ribalta, sanno tutti quali sono le illegalità abbastanza palesi di questo impianto, sanno tutti l'impegno che si sta mettendo in questa lotta, le cose che ci sono in palio, perché non è una discarica di Cerico, ma Cerico, la discarica di Cerico è simbolo di un sistema di gestione di rifiuti regionale completamente medievale, e dire poco, nel senso che quelle almeno producevano solo pipì, cacca, buttavano alla finestra e ciao. Noi invece produciamo molto di più, consumiamo molto di più e buttiamo molto di più, e sono cose abbastanza tossiche, quindi è una situazione che interessa l'intera regione Calabria, quindi è normale che si ricevano determinate adesioni. Quando poi sono stati interpellati anche i ministri, il ministro dell'ambiente si è interpellato e ha scritto ad Oliverio e ancora non ha ricevuto risposta dopo 3 mesi. Quindi voglio dire, ormai è diventato un caso nazionale, ogni giorno siamo su TG e roba del genere, quindi è normale che la gente dia adesione, perché salendo in Sila, ormai visto che si sta raddoppiando l'umidità, è visibile a tutti, anche a chi magari prima passava e non ci faceva caso, diva la puzza, ci sarà una porcilaia, no, peggio. non è una... è peggio della una porcellana. Magari. Invece oggi si vede benissimo, ci sono le gru, ci sono le luci, ci sono le funicolari, ci sono i fantasmi con i camion, insomma. C'è un pochino di tutto. Ah, addirittura oggi abbiamo ricevuto anche un'altra adesione oggi. Giusto per chiudere prima di andare al pezzo musicale, è un'adesione simpatica. Un camionista che trasportava questi rifiuti praticamente alla Lamezia, giustamente si è lamentato per la strada della discarica, cane ammazzama, ha detto. Sì, sì, ha detto, stiamo distruggendo i mezzi e tra l'altro rischiamo di farci male. Quindi sono con noi anche loro, quindi voglio dire, la situazione è paradossale, che chi lavora ovviamente cambiare una famiglia con questo mestiere si deve trovare anche in difficoltà del genere a percorrere strade completamente inadatte al transito di determinati mezzi, nonché al transito di determinati contenuti dei mezzi, essendo una strada che tange il parco nazionale della Sila, patrimonio dell'UNESCO, che se ne frega un po', però voglio dire, sì sì, a livello di ente parco sì, se ne frega un po'. Del resto non è stato nemmeno invitato nella conferenza dei servizi che ha decretato, no, che ha rilasciato l'autorizzazione in decreto ambientale, e non ha detto una cosa veramente ridicola. Quindi Andrea ci dice di andare con il pezzo musicale, sì? Dici così? Va bene, andiamo con il pezzo musicale e ci sentiamo tra poco. A tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina. E allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora. Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Padre Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia. Fumo nero, tu aperto le broccia. Fumo nero, come la città. Lo stesso fumo nel tempo. I cani blu corrono sempre. Otto ore di lavoro a Chicago. Volevamo il fumo, non mi mangia lo stesso. Dunque, dopo questo pezzo della banda Bassotti ritorniamo in studio, noi che la banda Bassotti l'abbiamo direttamente, che gestisce la discarica, ritorniamo in studio, siamo gli Scarafaggi, 105.7 ciroma.org per lo streaming. E a proposito di banda Bassotti, la banda Bassotti sta iniziando a querelare i giornalisti che fanno informazione veritiera. Una giornalista d'assalto è stata, diciamo, colpita, diciamo, da questa vicenda. Ne parleremo meglio magari nei giorni a venire direttamente, sì, con quando lei avremo anche elementi più precisi, sì. Insomma, dopo la chiusura di Yacchi Te, perché ho chiuso dall'ansia, adesso ci sono anche le querele per i giornalisti che scrivono la verità, mentre ci sono giornaletti come il Garantista, me ne assumo la responsabilità di questa storpiatura del giornale, che scrivono puttanate perché sono pagati lautamente dall'alto, giornalisti, direttori e compagnia bella. Quindi l'informazione è deficiente in questa situazione, che cerca di tutelare il potere e non fare quello per cui dovrebbero essere pagati. Per fare questo noi scriviamo comunicati ogni giorno, anche oggi ne uscirà uno su quello che è successo stamattina e su quello che saranno i prossimi giorni. Già per esempio stasera ci sarà una affollatissima assemblea presso la sala multimedia di Rovito alle 21.30, quindi chi può salire e partecipare a questa assemblea, perché come tutte le assemblee sono aperte a tutti, anche a chi in questi giorni non è uscito in giro un po' a far raccogliere le firme. Ricordo per esempio il circolo PD di Rovito, che lui sono quelli che vogliono utilizzare i mezzi legalitari, però poi quando gli dai in mano un mezzo che più legalitario non si può, sono latitanti, fanno orecchie da mercante, sono già in assetto, prima abbiamo parlato, in assetto elettorale, sì. Quindi stanno semplicemente tutelando i propri interessi. Poi mercoledì, sì, perché diciamo poi lanciamo l'evento di mercoledì, insomma, il silenzio del PD a livello non soltanto presilano ma a livello proprio regionale è imbarazzante sulla questione dei rifiuti. L'anno scorso si gridava allo scandalo contro Scopelliti per la gestione dei rifiuti, si gridava allo scandalo per la discarica di Celico, si gridava allo scandalo e all'incostituzionalità per l'emendamento Orso Marzo, si paventavano e si minacciavano azioni legali, azioni di protesta, hanno partecipato ai blocchi pure loro. Quest'anno che c'è Oliverio, la parte politica è la loro, e quindi la politica è peggio di quella di Scopelliti, però non si dice una parola, quindi è veramente imbarazzante, diciamo, il loro silenzio. La base gli sta traballando, perché l'esempio del circolo Valerioti a Cosenza, ma anche di molti militanti nella nostra zona che hanno deciso di agire singolarmente senza tenere conto dei diktat che, come giustamente scrivono i ragazzi dei giovani democratici di Cosenza, sono ormai palesi nelle sezioni. Se traballa la base, o prendono posizioni o si assumono la responsabilità di essere spazzate via dalla storia, perché comunque le elezioni, se non sono tra poco, saranno a breve. Non penso che Oliverio riuscirà a arrivare alla fine della legislatura con tutti i cazzi che si trova in mano, diciamo in mano, non dire da altre parti. Sempre per andare avanti nella mobilitazione, la raccolta firme continua al presidio di Celico, in tutti i comuni della presila sono disponibili i fogli nei supermercati, nei bar, ovunque potete andare a firmare, non c'è bisogno che venite al presidio. Se volete venire al presidio a fare compagnia, a dare una mano, a dare un contributo economico, un contributo di alimenti, di idee, di fantasia, il presidio è sempre lì fisso sulla statale 107. Che passa da Celico e porta da Cosenza a Crotone, che dire più, mercoledì, mercoledì c'è prossimo un altro impegno, come si chiama? Parole al vento nauseabondo. Fantastico. Un convegno, diciamo. Sì, un dibattito con degli esponenti di alto calibro della cultura e del giornalismo calabrese. Abbiamo, del vero giornalismo sì, calabrese. Ma anche nazionale, direi. Sì, per, sì, sì, sì. Ad esempio abbiamo Alfredo Sproviero, che è insieme il direttore di Masceta.it, nonché giornalista d'assalto, ha fatto un sacco di inchieste, ha scritto anche dei libri. Abbiamo Claudio De Nesalvi, lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, scrive anche per il Manifesto. Abbiamo, e poi abbiamo Francesco Cirillo, anche lui non ha bisogno di presentazioni, uno dei più grandi giornalisti in Calabria, penso, e non solo, a livello di ambiente e di inchieste sulle tematiche che noi affrontiamo in radio e con il comitato. Insomma, il meglio dell'informazione sarà mercoledì dalle 18 alla sala consiliare, al presidio, se piove, alla sala consiliare del comune di Gerico. Quindi dalle 18, parole al vento nauseabondo, visto che comunque il vento da noi è così. Poi nei prossimi giorni andremo a portare noi le firme, allora ancora stasera decideremo chi, dove e quando, andremo a portare le firme personalmente a Gerard, Marius, Oliverius, così non vorrei che magari si perdessero Poste Italiane, sta avendo problemi, insomma ritardi, magari noi la situazione è un po', come dire, spugnosa, ci sfugge dalle mani, quindi sì, sì, porteremo al nostro compagno, caro compagno Oliverio, le firme di tutta la presina. Tu ridi, compagno Oliverio. Il nostro compagno Oliverio, sì. Peccato che compagno deriva dal latino cumpane, che significa qualcuno con cui hai mangiato il pane, quindi insomma. Mango pork. Capito, mango pork, come ci mangiassi io cookies. Comunque. Quindi porteremo le firme ad Oliverio e poi, come abbiamo già accennato prima, daremo un out, perché i tempi delle trattative sono finiti, siamo scesi a compromessi. I compromessi non sono stati neanche rispettati, quindi si va verso la meta, ovvero la chiusura della discarica con il ritiro in autotutela dell'autorizzazione di dato ambientale, a difesa di un territorio, di un popolo e di e della dignità di una serie di comuni, di associazioni, anche, io te lo direi anche dalla volontà democratica, sì, di un popolo che si sta esprimendo attraverso la raccolta firme, che si è espressa in tutti i modi in questi mesi, in questi anni, dicendo sempre no a questa discarica. Quindi Oliverio non può far finta di nulla, non può chiudere gli occhi e le orecchie e non ascoltare questa richiesta. Ripetiamo, noi siamo pronti anche a fare più rumore, è qualcosa di più forte per fargli aprire le orecchie e farci ascoltare, anche perché è impossibile che un governatore regionale, che insomma parla di democrazia, milita in un partito che si chiama Partito Democratico, possa ignorare un'istanza democratica così forte. Quindi sì, faremo di tutto per farci allo scadere di questo opt-out, che gli verrà ovviamente dato, perché comunque bisogna darsi delle scadenze, ci sarà questa grande assemblea in cui ci autodetermineremo, e penso che non ci sia voto contrario ad andare a intraprendere azioni più poderose. L'abbiamo già fatto, lo rifaremo, ce ne assumeremo le responsabilità. Questa volta forse non siamo soli, ci sono i sindaci che saranno in prima fila, che hanno firmato questo documento, che hanno richiesto insieme a noi il ritiro dell'AIA, anzi addirittura alcuni sindaci che non erano stati coinvolti di paesi vicini hanno voluto apporre la loro firma per dare sostegno alla lotta, sì, per dimostrare Fitta, Prigliano, unità, pure più lontani, unità di intenti e di territorio, perché è possibile un territorio come il nostro, che ha percentuale di raccolta differenziata elevatissima, a gestirsi, visto che la dimostrazione della potenzialità ci sono, gestire i rifiuti da soli, abbassare le tasse, ridurre l'inquinamento, partecipare ai bandi europei per i fondi sulle bonifiche dei tanti siti contaminati che sono presenti sul nostro territorio, e diventare veramente l'esempio da seguire per stilare un piano rifiuti, perché ricordiamo che ancora ad oggi, 12 ottobre 2015, la Calabria non ha un piano rifiuti. Questi signori avevano annunciato che sarebbe stato pubblicato a fine luglio, poi a settembre, e adesso è andato dal dimenticatoio. Non vorrei che magari, vista l'impossibilità, a sto punto sembra mancanza di competenze di poter redigere un piano, mirino addirittura al ritorno al commissariamento. Spero di no. Spero sarebbe di no. Una follia un completa. Un suicidio politico. Sarebbe, sì, oltre che un suicidio politico sarebbe una follia completa e un danno immane per la regione, perché insomma l'abbiamo visto in 15 anni di commissariamento quali sono stati i risultati, quali sono stati i fondi spesi, perché 1,5 miliardi di euro buttati completamente, non si sa in che cosa, dai vari commissari che si sono succeduti nel tempo, sono veramente uno scandalo e qualcosa che grida vendetta, perché hanno aperto discariche in maniera abusiva, derogando le leggi, tipo quella di Celico, ma non solo, hanno derogato le leggi nazionali, hanno derogato le leggi europee, quindi hanno inquinato i territori impunemente per garantire poi alla fine, anche sotto commissario, per garantire gli interessi di chi sappiamo noi, insomma, delle bande bassotti che girano in Calabria. Quindi andare adesso di nuovo, rientrare di nuovo in regime di commissariamento sarebbe veramente una follia completa, visto che non è più rimandabile in una regione come quella calabrese una seria politica di bonifica innanzitutto dei siti contaminati e una seria politica attraverso un piano regionale dei rifiuti moderno ed efficiente. Non è più rimandabile una cosa del genere, perché altrimenti, come dicevo prima, stiamo sprofondando nel medioevo più buio, stiamo sprofondando nell'oscurità, perché di questo si tratta. La gente muore di tumore. La Calabria, leggevo un articolo tempo fa, ma non mi ricordo la fonte, mi scuso con chi ci ascolta, ma la Calabria risulta tra le regioni col più alto tasso di incidenza tumorale in Italia. Paola se non è la prima, è la seconda città in Italia per incidenza tumorale. Crotone sarà la terza o la quarta a livello nazionale. Cioè abbiamo percentuali incredibili di malattie neoplasiche. Quindi questi sono i dati, questa è la realtà. Se poi vogliamo far finta di niente e morire tutti in silenzio, non lo so. Che poi diciamo che questa è l'ultima occasione forse che ha Oliverio di aprire al dialogo con la partecipazione popolare, ma un dialogo costruttivo, un dialogo in cui entrambe le parti si ascoltano, non un dialogo di da fotografia da mettere su Facebook, tavoli tecnici di 3 persone. Qua occorre redigere un piano rifiuti per salvare un'intera regione, occorre redigerlo in modo più democratico e partecipato possibile, perché ognuno conosce bene il suo territorio, le potenzialità, i rischi, le conseguenze che potrebbero avere determinati tipi di gestione e impianti scelti in modo scriteriato e solo per speculazione economica. Quindi, e questa è l'ultima occasione che ha forse Oliverio di aprire un tavolo tecnico con i sindaci dei paesi virtuosi, con i comitati, con tutte le associazioni che hanno a cuore le tematiche ambientali. Se non lo fa adesso, quando? Cioè, dovrebbe dire ora mai più, in effetti anche per questo è l'ultima occasione, anziché, se non vuole fare questo e vuole continuare a dialogare solo con i privati, addirittura dando a loro i soldi per la realizzazione degli impianti e poi la gestione in mano completamente privata, poi ne pagherà le conseguenze sia politiche di strada. Ma infatti lo dicesse chiaramente, questa è la nostra politica, così andiamo avanti. La regione Calabria non ha un futuro da questo punto di vista, ma lo devono dire chiaramente, però lo devono dire chiaramente in tutte le sedi e renderlo pubblico, perché renderemo pubblico anche noi, perché i comitati in Calabria radicati nei territori, non saremo sicuramente queste grandi organizzazioni con folle oceaniche dietro, ma siamo una rappresentanza consistente della volontà popolare calabrese. Ricordiamolo che Oliverio è stato eletto con il 55% di astensione al voto. Di astinenza al voto. Di astinenza, davvero. Hanno solo il 22% del favore degli elettori. Da, quindi di che penso cosa stiamo, che sarà anche diminuito. Di che cosa stiamo parlando? Penso che sia necessario che si ascoltino anche le altre parti per tirare fuori il meglio da una situazione così, così grave. Vabbè, detto questo, speriamo che palla, a cui vogliamo bene, però sì, c'ha quella testolina della Lino Banfi che ti verrebbe voglia di prenderlo a schiaffetti sopra. Mi ricordi che si è preso a schiaffetti. Vabbè, l'ha fatto da solo. Ma andiamo avanti, un altro pezzo musicale. Peccato poi non poterlo far vedere a chi ci ascolta, ma è una scena bellissima, la scena di lui che si batte la testa alla Lino Banfi, è veramente una scena e secondo solo all'ansia di Occhiuto che ha fatto qui degli acchi te. Complimenti granieri a Cosentino, sai chi fa? Arresta spacciatori, chiude giornali e apre inchieste di Granier. Ma l'inchiesta sul ciclo dei rifiuti la vuoi aprire in questa cazzo di procura? È possibile? Allattare i rifiuti tossici, al Celico niente, quello niente, apri l'inchiesta, no?

riempiono le nostre giornate, quindi hanno riempito anche oggi questa trasmissione. Yakite. Come? Yakite. Ricordiamo di nuovo l'assemblea di stasera, che è molto importante perché insomma ci determineremo rispetto alle scadenze che abbiamo da rispettare, perché dicevamo porteremo in questi giorni direttamente in regione con annessa conferenza stampa queste firme di tutti i sindaci della Presila, lo ribadiamo, di tutti i sindaci della Presila, di alcuni parlamentari e di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di cittadini presilani, per la richiesta del ritiro in autotutela dell'autorizzazione integrata ambientale della discarica di Cerico. Quindi faremo questo viaggetto, questa visita al nostro caro amico Oliverio. Non lo chiamo compagno, è inutile che tu insisti a chiamarlo compagno, è il nostro amico Oliverio, e vediamo che cosa ci dice. Speriamo che non si batte la testa e ci dice, vediamo che possiamo fare, sì, insomma qualcosa la dovrà pure dire. Assolutamente sì. Speriamo. Quindi l'assemblea di stasera per decidere le scadenze. Poi ricordiamo di nuovo mercoledì alle 18 al presidio sulla SS 107 di Cerico, o in alternativa, se piove, alla sala consiliare del comune di Cerico, l'iniziativa pubblica, il dibattito pubblico va parole al vento nauseabondo con Cirillo, aiutami, Diane Salvi e Alfredo Spodini. Detto questo, io ho un contributo, mi hanno mandato un video bellissimo, c'è un noto rappresentante del PD italiano, il Parlamento europeo, che vuole farci un saluto, vuole salutare in particolare Staccio, c'è un inglese fantastico. On 28 November 2011, an historic event happened at the EU Parliament in Brussels. The first ever peace declaration was signed here. The purpose of this declaration, called the Pledge to Peace, was a call to action for institutions across Europe to act and to support peace. Blocchiamo subito perché qua... Vabbè. Oreste, questo ti saluta caldamente. Questo signore è uno dei maggiori responsabili del disastro ambientale in cui versa il Sud Italia. Pittella, fratello del governatore della Basilicata. Massone pure. Massone, sì, insomma ne ha di tutti i colori. Non sa l'inglese, però ricopre un ruolo di grande prestigio al Parlamento europeo. Secondo me non sa nemmeno l'italiano comunque. È un uomo delle trivellazioni, è un uomo delle discariche, è un uomo purtroppo del PD, è un uomo della sinistra italiana, è un uomo che ci rappresenta in Europa. Aggiungerei un uomo di merda e dopo questo ce ne possiamo andare a casa. No, vabbè, no, perché assolutamente. No, per farci due risate così ogni tanto, perché sennò si dice che siamo sempre seriosi, sì, che parliamo solo di munnizia, di discarica, dico. E basta. Parliamo di munnizia umana, che è meglio. Dai, sì, dai. Quindi, la situazione è in forte evoluzione. Vi aspettiamo numerosi sia all'assemblea sia alle iniziative che stiamo portando avanti. Diciamo che il momento decisivo è il famoso ormai più, se non la chiudono loro la dobbiamo chiudere noi, per tutti quei Rambo che volevano chiudere, sovrastare, che fa esplodere l'autostrada, la statale, mettere le dinamiti, bloccare lo spazio aereo, forse è il momento adesso di venire al presidio, di partecipare, è il momento di mettere in azione, di trasformare in fatti le chiacchiere da bar in tutti questi Rambo che sono in presila, sono pregati di partecipare, ovviamente senza portare armi, ma semplicemente portando il proprio corpo per difendere il nostro territorio, che è anche il loro. Ma sarebbe meglio se fosse soltanto nostro, perché sennò se loro ci troviamo in questa situazione. È proprio per loro che ci troviamo in questa situazione. Andrea, fai il segno della chitarra, vuol dire che abbiamo chiuso. Ci sentiamo il prossimo lunedì dalle 18, sempre sulle frequenze di Radio Ciroma 105.7 ciroma.org. Noi siamo gli scarafaggi maledetti. Questa discarica o la chiudono loro o la chiudiamo noi. A lunedì.